avete rotto i coglioni con questo programmino, perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sapere da Parenzo se è preoccupato dal fatto che alcuni studi dimostrano che non esiste l'orgasmo vaginale, caro intanto Parenzo. Intanto buonasera. Non c'è bisogno di buonasera, questa non è una trasmissione per dire buonasera benvenuti, buonasera. Sì, sei preoccupato o no? Ma non ho capito, cioè, la ti domanda. Sei mai preoccupato quando hai fatto godere la tua donna se ci fosse un orgasmo vaginale o clitorideo, sì o no? Ma forse non ti mi sono anche posto questo problema, ma non in un contesto on air, no? Ma che c'entra? Ma c'è una rivista, cioè, ne parlano tutti. L'orgasmo vaginale non esiste, ti sei posto mai il problema o no? Te lo sei posto o no? Adesso non così a bruciapelo, magari nella mia vita mi sono interrogato spesso su questa questione. Non ti sei mai posto questo problema. Interrogato, sì, su questa questione. Tu ti sei interrogato? Sì, sempre, continuamente. Ogni minuto. Continuamente. Certo. Però c'è anche un divertente tweet di Carlo Sibilia, sai quello dei 5 Stelle, signor Sibilia. No? Sibilia. Perché sì, secondo voi impediscono agli scagnozzi Rina e Bagarella di vedere il boss, collegati, no? In videoconferenza, il boss sarebbe Napolitano, di vedere il boss. Signor Sibilia, questa. Signor Sibilia, dà del boss a Napolitano e degli scagnozzi del boss a Rina e Bagarella. Cioè, Napolitano sarebbe il capo mafia. Signor Sibilia dei 5 Stelle. Sì. A Sibilia! Su, dai, amico mio, Sibilia, su. Basta con le stronzate, che siete giù! Siete a terra, cari 5 Stelle, siete a chissà terra. Chissà perché, se continuano così, amico mio. Vabbè ragazzi, però voglio iniziare in questo modo. A Napoli, dato che a Parenzo non interessa il com'era evidente, no, l'orgasmo vaginale o clitorideo, non ti interessa, è un argomento che non ti interessa. No, benissimo. Mi puoi interessare moltissimo, di queste magari cose, nell'intimità ma puoi interessare. Ma che intimità, ne parlano tutti per strada, l'orgasmo vaginale o clitorideo, ma lasciamo perdere questo. Ma come si può approfondire la questione? Ne parliamo dopo, questione. Non ti preoccupare, ne parliamo dopo. Con persone esperte della materia. Ecco, benissimo. Cultori della materia o cultrici questo della benissimo, materia. Figuriamoci. A Napoli hanno seviziato con un tubo un ragazzino che è molto grave. Adesso bisogna un po' essere seri, no? È molto grave. Noi non ce l'abbiamo con i napoletani, non ce l'abbiamo con Napoli, cari amici neoborbonici. Beh, cari poteva amici accadere in qualunque posto. Volete togliere la pubblicità a questo programma, invece la pigliate in quel posto. Il problema non è questo. Il problema non è che noi ce l'abbiamo con i napoletani. Però, sentite queste voci della madre. Credo che sia la madre, no? Che cos'è? Una parente, una madre, una nipote? Che cos'è? La suocera di chi è? Un parente di questo ragazzo che è stato accusato, perché naturalmente, no? Hanno seviziato il 14enne. Sentiamo qualche voce che viene dal quartiere Pianura di Napoli. Mio genero, la fresca persona, cosa ha fatto così? Aveva tutta, l'ha detto la mamma, aveva tutta del Napoli, quella là leggero, che la mamma dice se mio figlio aveva qualche jeans, da salire questo non succedeva. Se aveva i jeans non succedeva, era la suocera, perché questo è sposato, questo ma ragazzo. Però no, io non metterei una se questione aveva geografica i jeans, però. No, io non metterei una questione geografica, cioè, è chiaro che è una aberrante quello che ha detto. No, questa però non Napoli so non c'entra sia, niente ma, appunto, ma no, perché ne fai una questione geografica? Cioè, perché le stupidaggini hanno una connotazione territoriale. Senti, io non dico niente, perché ma se non mi dico accusano. Niente, è il solito metodo, dico non dico niente, non dico però niente. Intanto te la senti, butto là. Senti la suocera, no, senti la suocera di quello che ha messo il tubo nel sedere a questo ragazzino. Un tubo, non so chi è che altro. Difende ste porcherie. Senti questa qua, la suocera, quartiere Pianura, Napoli. È un omicidio questo. e poi mi ha preso la coppa casella, si toglie a cinque, io penso che non mi ha preso la casa. Non mi ha preso, vado qui e faccio la titana. Un tubo ad aria compressa, un compressore. Ha abbassato i pantaloni, ha preso un tubo ad aria compressa e soffiato con una tale violenza da lacerargli gravemente l'intestino. Non è un omicidio, è stato uno scherzo banale. È stato uno scherzo banale, non si fa. Però non c'è da mettere omicidio colposo. Non la da mettere come pedofolia. Perché arrivo di pusciuriale quando venne interrogato sabato. Io arrivo di pusciuriale. Perché sabato a chi accidere. E accidere di creature 14-15 anni innocentemente. Chi sono con omicidio? No, questi qua. Non so se avete capito, perché non è italiano ovviamente. No, non è omicidio, pensate alla camorra, questo ha detto. Non lo so, forse è un altro, pensate alla camorra. Io non hanno mia testa a buio, pure si muoveva senza malizia, forse l'abbiamo capito, perché non è un delitto questo, non può mettere omicidio colposo, o omicidio colposo è chi la spara, chi la tende con il pane, cioè si apre a capore quello che state facendo. Io non dico niente, non dico niente, per adesso non dico nulla. Ma non ti credo, non puoi dire nulla. Per adesso non dico niente, per adesso non dico niente. Beh, già dire così vuol dire che dici. Per certe solidarietà. Ma quale solidarietà? Chissà, è un episodio perché, vergognoso di bullismo schifoso. Chissà perché avvengono solamente in certe zone d'Italia. Ma non è vero. Sì, in certe zone. Ma purtroppo queste robe qui possono avvenire da Bergamo Alta, da fino a Raccalmuto, su. Vediamo. Sono storie drammatiche. Dappertutto possono succedere, su. Ma, vediamo. Ma che hai fatto? Una mappatura geografica del crimine. Del bullismo. Ma. Perché il bullismo sta solo a Napoli. No, ma non dire subito delle stronzate. Questo no. Ma è una roba drammatica. La solidarietà, ho detto, cioè, una cosa diversa. Colore. Ma solidarietà di che? È la madre, sono i parenti di quei criminali. Vabbè, i parenti dei criminali ragionano sempre così, scusa. Ne parliamo. No, non è mio figlio, chi è stare? No, è un gioco. Beh, insomma, un gioco, amico mio. Tu però fai la parola. Dia del napoletano. Ma no, ma lo faccio perché l'hai fatto, ma poteva essere. La mitologica taverna Tony, al Senato. È un gioco, sì, un gioco, Tony. La mitologica taverna al Senato. Nice. La mitologica taverna al Senato durante la nottata dove è successo di tutto per la fiducia. Sentite. Titolo della delega. Delega al governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Se aggiungeva anche la separazione delle acque, probabilmente la sua sensazione di essere Dio sceso sulla terra sarebbe stata certificata da qualcosa di anche scritto. Mussolini mise il TFR, Renzi lo toglie. Vabbè, lasciamo perdere. Io sono andata a vedere chi l'aveva messo il TFR, mi sono sorpresa. L'ha messo Mussolini. Allora, Mussolini mette il TFR e fa uno stato sociale. E Renzi, che cosa fa? Toglie il TFR, lo mette in busta paga, lo tassa. Ma perché uno deve dire queste puttane? A parte che Renzi non sta togliendo nessun TFR, cioè non lo sta togliendo perché c'è una discussione. È la taverna che ha riabilitato, andare addosso fermo, a Renzi, calma, ha riabilitato taverna. Mussolini. Di che partito è la taverna? M5S. E chi ha votato in questa trasmissione per il Movimento 5 Stelle? Vai a chiedo, culo, chiedo, vai. domanda. Per chi ha in questa trasmissione, chi ha votato? Ce n'è un altro forse che ha votato per i 5 Stelle. Massimo Ciancimino è con noi, buonasera. Buonasera ragazzi. Buonasera Parenzo, buonasera Cruciani. Signor Ciancimino, lei ha votato per i 5 Stelle, mi ricordo, sì, o no? Ho votato per i 5 Stelle. Si è pentito? Confermo. Si è pentito o no? No, ancora devo dire che non appartengo al pentimento in nessun tipo di atteggiamento. L'area del pentito, anche lei Cruciani, subito dire si appunto, è pentito. L'ho fatto apposta. Pentito al signor Ciancimino. L'ho fatto apposta, dai. Non mi pento. Non mi pento di aver votato 5 Stelle. Vabbè, senta, ma il patto tra Berlusconi e Renzi, che patto è secondo lei? Un patto, uno dei tanti patti. Uno dei tanti patti della storia d'Italia. Che aleggiano a margine della nostra storia repubblicana, no? Un patto letale, secondo lei, signor Ciancimino? Ma no, letale credo. Per essere giudici e anche obiettivi su questi fatti, lei mi insegna che bisogna aspettare almeno 20 anni. 20 anni, però io sono convinto di una cosa, pur non essendo io un dietrologo, però mi dicono anche molte persone vicine al Partito Democratico che in realtà c'è un patto scritto, che sono quelle quattro righe sulla riforma del Senato, sulla legge elettorale, eccetera, eccetera. Però c'è un patto implicito. Io questo lo voglio dire apertamente, non sono uno di quelli che fa dietrologia, però Parenzo, mi dicono molti nel Partito Democratico, anche renziani, che in realtà questo patto implicito c'è. Ed è quello che Renzi non deve rompere i coglioni alle cose a cui tiene Berlusconi, la giustizia, le cose. Lascia perdere poi quello che succederà nel concreto, i provvedimenti. Però no, quando ecco, c'è appunto, qualcosa. La chiave. Concreto. No, però non. E questa è la realtà. Ecco, Ciancimino, c'è una cosa che riguarda la giustizia in questo patto, secondo nel patto del Nazareno, o no? Ma credo che, esempio, anche chi le parla è un condannato per riciclaggio, sì, per cui ecco, sì, che si auspica che il reato di autoriciclaggio possa realmente essere trasformato in legge, ovviamente al più presto possibile, per la lotta seria al crimine organizzato, e allora? Il buon Falcone. Vedo che tutto quello che sono i problemi della giustizia, legati ovviamente anche a vicende secondarie o direttamente legate a elementi di Forza Italia, tarda nell'essere approvato. Per cui c'è un patto implicito, per cui... Credo che, insomma, non si tratta di patto, credo che chiunque andrebbe a stringere nel momento in cui deve stringere un patto, non si dà da solo martellate nelle palle, scusatemi da solo l'espressione. Ecco, lei che è un esperto di patti, è un esperto di accordi. Io più che altro di trattative, d'accordo, esatto. Cioè, che conosce bene. Queste trattative, ci sono i papelli, appunto, i fogli, diciamo, semplici, quelli dove vengono messe le cose così, diciamo... Sì, adesso si chiamano punti, adesso si chiamano i slide, punti, però poi fuori slide, sacco, no? Ecco, slide, fuori sacco c'è qualcosa del genere, cioè c'è un accordo implicito, non mi rompere i coglioni, no? Adesso io lo traduco credo così. Di sì, cioè io non faccio, credo che se Berlusconi tutto si ci possa dire al cavaliere, tranne quello di essere non intelligente, non sprovveduto, acuto, provveduto da cercare di limitare i danni il più possibile. Dunque implicito, implicito, è chiaro che questo è un governo nominato, diciamo, dal Colle, oggi è un'udienza dove è stato anche nominato il Colle, a proposito, dico, un governo nominato dal Colle ovviamente che ha bisogno della stampella della destra, per cui è chiaro che in questo momento nessuno... C'è un fuorisacco che riguarda comunque, non devi disturbarmi, questo è il punto, non devi disturbare le mie robe. Esatto, più che altro non devi peggiorare, magari non disturbare. Già, allora, dopo il traffico chiederò a Ciancimino, Massimo Ciancimino, figlio di Vito Ciancimino, adesso riepiloghiamo tutto, eccetera, eccetera, cosa ne pensa di uno dei fatti del giorno, cioè dire quello che ha detto la Guzzanti sulla testimonianza, sulla presenza di Rina e Bagarella, Napolitano che deve rispondere ai magistrati. Subito diretto a Massimo Ciancimino, se per lei, Ciancimino, è uno scandalo il fatto che Rina e Bagarella non potranno assistere alla udienza in cui Napolitano verrà interrogato sulla trattativa. No, non credo sia uno scandalo, sia stata fatta un'ordinanza, ovviamente sull'interpretazione di una legge. Ovviamente lascia da pensare, come diceva il famoso giurista Calamandrei, che spesso la legge viene applicata per i deboli e interpretata per i potenti. Però lei, dicendo questo, dice sostanzialmente che nel caso di Napolitano hanno fatto un favore a Napolitano, come dice Parenzo, o no? Ma no, io credo che il problema lì stia a monte. Credo che in un momento così di grande confusione istituzionale, in un momento in cui più che un Colle sta diventando sempre più un castello, forse un gesto di umiltà avrebbe aumentato la credibilità al paese del nostro presidente. Sì, però ho capito, secondo lei la presenza di Rina e Bagarella, seppur in videoconferenza di fronte a Napolitano, non è una roba vergognosa per un paese? Oppure lei pensa che sia normale che Rina e Bagarella, seppur imputati in quel processo, possano assistere? Sia più chiaro, Ciancimino, non si copra dietro cose democristiane. Non mi copro dietro atteggiamenti democristiani, lungi da me. Ovviamente io avevo chiesto di partire. Anche lei. Nel momento in cui ho saputo che la stessa richiesta era stata avanzata da Rina e Bagarella, ho ritirato la mia richiesta, ho detto al Presidente che non intendevo associarmi a questi due soggetti. Cioè, non voleva unirsi. Sembra, a Rina. Sai la canzone "Vengo anch'io, no tu no" di Enzo Iannacci, capito? "Vengo anch'io, no tu no". Esatto. Vengo, però avevo detto Rina sì, e Bagarella, "Vengo anch'io, no tu no". Vabbè, ho capito, ma insomma, secondo lei, alcuni dicono, siccome sono imputati in quel processo, hanno tutto il diritto di assistere a questa roba di Napolitano. Lei che dice su questo? Umana umanamente dico che non dovrebbero assistere. Perché? Da un punto di perché? Vista, perché secondo me sono due criminali di bassa lega e già il fatto di violare, però sono imputati anche loro a prescindere il cognome. Quindi ne avrebbero diritto. Vedere, dunque avrebbero diritto. Cioè, bisogna vedere quello che è il diritto dei singoli imputati, dovrebbe prescindere dal cognome. No, però lei dice che in questo caso ha prevalso la ragion di Stato, questo è il punto. Sì, ha prevalso soprattutto un gesto di umiltà. Non ha prevalso un gesto di umiltà da parte del Presidente. Perché che doveva fare Napolitano, scusi? Poteva anche, in un momento in cui si decanta che anche lo stesso Napolitano, dove carceri non riescono ad essere aperte perché mancano fondi e si chiede l'amnistia e l'indulto, sapendo che una trasferta di una corte d'assise costerà decine di migliaia di euro. Ah, dove andare a Palermo, secondo lei? Credo alle prerogative si può anche rinunziare. Si può rinunziare a quelle prerogative per far risparmiare un po' di soldi, per evitare imbarazzi e altro. Senta, mi sembra che Grasso, che io non amo particolarmente, anche in questa trasmissione non ne ho mai decantato le lodi, credo che abbia rinunciato a questa prerogativa. Credo che altri presidenti si sarebbero comportati in questa maniera. Senta, nel momento in cui credo che c'è bisogno di chiarezza e c'è bisogno anche di tanti gesti di umiltà. Senta Ciancimino, ma ieri Sgarbi qui da noi ha detto di aver sentito, poi molti negano eccetera, le telefonate di Napolitano con Mancino, in cui secondo Sgarbi Napolitano dà della testa di cazzo a Ingroia di Matteo. Secondo lei è vero? Ma io non so sinceramente Sgarbi come possa aver avuto accesso, se ne è parlato tanto, addirittura giornali settimanali hanno pubblicato ricostruzioni di queste telefonate. Sì. Di fatto credo che chi le conosca è Ingroia, ora non so se... Ma la Guzzanti fa bene a dare solidarietà a Rina e Bagarella? Ma sa cosa ha scritto? No, no? Sbaglia. No, in questo caso no, perché no, Sabina è ottima, fa il suo lavoro, non so se fa questo solo per propaganda del film, ma sicuramente... immagino di sì, anche questo ci sia, o no? So che il film, diciamo... Non sta andando bene. Dunque, secondo lei queste... assistiamo ad una rottura, assistiamo ad una rottura. Cioè, lei è che è stato sempre abbastanza vicino... Ma ha visto il film, lei? Io no, non ho visto il film perché devo dire, prendere schiaffi già mi ricordo bene, a rivederlo al cinema non mi andava. Poi va visto tutto in chiave di parodia, però non ho avuto occasione di andarlo a vedere. Comunque ha sbagliato a dare solidarietà a Rina e Bagarella. Cioè, non sì, si comunque dà... se c'è una novità è che twitto con Gasparri. Posso darvi una novità, una chicca. Cioè? Che io personalmente ci twitto con Gasparri. Addirittura, come vi twitta? Scambiate in cosa? In privato o in pubblico? Scambiamo tweet, sì. Cioè vi scambiate fusioni con Gasparri? Esatto. In privato? Ma no, va dai. Come in privato? In privato. In pubblico allora? In pubblico, sì. Vediamo in un pubblico. Attimo che vi dite, scusa, che vi dite? No, niente, lui mi dice sempre che sono dinamitato. L'ultima volta mi ha scritto che non parlava con chi metteva il tritolo nel giardino. Io gli ho risposto che io invece volevo parlare chi il tritolo aveva nel cervello. E ci divertiamo. Che meraviglia. Vabbè, comunque mi sembra di capire che lei non fosse così favorevole. Cioè, non ho capito bene, perché lei è stato molto democristiano in questa intervista, Ciancimino. Perché lei detto, da una parte è giusto che mi dia del democristiano, e lo so un po' 5 stelle, poi mi sta del democristiano, la prega, no? Ma perché lei va di moda, perché dai, Dio, sono riusciti a riformare la DC silenziosa. Molti avvocati mi dicono che è una cosa inaccettabile contro la Costituzione che viene negato a degli imputati come Rina e Bagarella di ascoltare un testimone. Ma infatti, per questo dicevo questo, il problema che dico questo è che l'interpretazione della norma del 502, vabbè, lasciamo perdere l'interpretazione della norma, è così al limite che forse un gesto di umiltà da parte del Colle per sollevare dall'imbarazzo tutti sarebbe stato quello di andare al processo come ha fatto il procuratore Grasso. Sicuramente darà motivo a tanti di discutere e dibattere, perché il dibattito in effetti c'è. Ora che un imputato si chiami Bagarella Orina, scriviamo come che lo chiami... imputati al 41 bis venga negato alcuni diritti, per carità di Dio, mi sta pure benissimo, lo sottoscriverei. Renzi e Berlusconi, non perché Mancino, io quello che non ho capito è Mancino. Ma si può paragonare la trattativa Renzi Berlusconi, una trattativa, cioè che trattativa è Renzi Berlusconi? Non credo che sia una trattativa sarà un passo, una nuova trattativa. Ma credo che vabbè, arrivederci. Giuseppe Cruciani fa 2 ore il coglione in radio, lui è quell'altra sfardella di Parenza con la voce a trombetta, no? E prendono 20.000 euro al mese. la rubrica Italia. Italia, un paese di merda. Lasciatemi cantare. Questa Italia è un'Italia di merda. Con la chitarra in mano. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Lasciatemi cantare. È uno stato di merda che andrebbe processato. Sono un italiano. Questa è la merda d'Italia. Sono un italiano. C'è un'Italia di merda. Lasciatemi cantare. Beh ragazzi, due storielle prese oggi da vari quotidiani. Due storielle. La prima, caro Parenzo. All'aeroporto milanese di Malpensa lavora ancora un addetto allo smistamento bagagli che è stato licenziato perché filmato mentre rovistava nelle valigie dei passeggeri. Un dipendente filmato mentre mette le mani nei bagagli dei passeggeri non è più degno di fiducia e non importa se ruba o no, sostiene l'azienda, perché le valigie non si devono mai aprire. Ma il giudice non è d'accordo, l'azienda non ha indicato gli oggetti del furto contestato e le denunce dei passeggeri riferite al giorno della contestazione. Reintegrato. Questa è la merda d'Italia, questo è! Un'altra piccola storiella. Un ospedale della capitale è stato obbligato a riabilitare un infermiere che ha scagliato per terra un paziente affetto da grave insufficienza mentale, prendendolo poi anche a calci al torace e allo stomaco. Ecco. Non solo, l'uomo se l'è presa anche con una collega che ha tentato di fermarlo imbendo contro di lei. Dopo essere stato cacciato, giustamente aggiungo io, il tribunale di Roma ha reintegrato l'irascibile infermiere perché non costituisce giusta causa l'inadempimento del lavoratore perché aver perso per un momento il lume della ragione è evento eccezionale e dunque non ripetibile. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Lasciatemi cantare. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi, gli italiani sono stufi delle sceneggiate anche al Senato, i numeri dalla mia parte, le dimissioni di Tocci, farò di tutto per farlo restare. Guerini sui senatori che non hanno votato la fiducia, serve una riflessione. Civati, non siamo un soviet. Persani, alla Camera ci sia spazio per modifiche. Jobs Act, ci vorrà ancora tempo per definire in dettaglio le nuove regole per il lavoro. Draghi, non causerà licenziamenti. Processo Stato Mafia, all'udienza di Napolitano non saranno ammessi i posti linee Bagarella e l'ex ministro Mancino che saranno rappresentati dagli avvocati. Trattativa fallita alle acciaierie di Terni, lettere di licenziamento per oltre 500 lavoratori, sciopero e stazione occupata, a Renzi c'è ancora margine per discutere. Si combatte casa per casa a Kobane, l'enclave curda in Siria al confine con la Turchia, i raid aerei non fermano, i miliziani dell'ISIS ormai in città. Lo prendevano in giro perché grasso, poi lo hanno seviziato con una pistola d'aria compressa e in fin di vita un 14enne di Napoli ha arrestato l'aggressore. Voglio tornare su quelle voci da Napoli, perché questo caso è clamoroso. Adesso voi mi direte, Parenzo dice non c'entra niente Napoli, ma qualsiasi persona di buon senso lo dice, non Parenzo. Io lo dico chiaro, io certe cose le sento solo in certe parti d'Italia. La solidarietà familiare che esiste anche in casi gravissimi come questo esiste solo in certa parte d'Italia. Perché è normale che sia così, perché i vincoli familiari sono anche più stretti. La legalità è più debole. Il senso dello Stato non esiste. Per motivi molto semplici, ma è così. La solidarietà che si dà anche a persone che hanno commesso cose gravi, come questo ragazzo di 24 anni che ha infilato una roba nel culo di un ragazzino, ferendolo quasi mortalmente, perché di questo si tratta, diciamolo chiaramente. Beh, non è che si vede dappertutto, Non si vede dappertutto questa solidarietà. Sentiamo le voci della suocera, va, qualche voce della suocera. Mio genere, la presa compressione è cosa bella, ha fatto così. Aveva tutta, l'ha detto la mamma, aveva tutta del Napoli, quella là leggero, che la mamma dice se mio figlio aveva qualche jeans o da salire questo lo succedeva. è un omicidio, pensate alla camorra. È un omicidio questo. E poi mi ha preso la coppa casella. Si toglie a cirlo. Io penso che non mi ha preso. Preso cosa la casa? Non mi ha preso, vado qui e faccio la ditana. Ma c'è anche il papà che dice: mio figlio non aveva capito la gravità dell'aria compressa. È stato fatto un gioco che non si doveva fare. Però secondo me mio figlio non sapeva nemmeno la gravità dell'aria del compressore. Vabbè, il padre è normale, dai, non sapeva la gravità. Poi ci saranno tutti i difensori. Oggi, caro Parenzo, è l'anniversario di Radio Belva. Ci siamo dimenticati, 9 ottobre. Non mi sono dimenticato per nulla, perché ero a Mediaset oggi pomeriggio e ti voglio raccontare questo aneddoto, oltre persone che ho incontrato. Oggi, un anno fa, Radio Belva, mai arrendersi, mai mollare. Grande... nasceva e moriva, diciamo, certo, nello nasceva e moriva giorno, con grande orgoglio. Come il sole che con tramonta. Con grande orgoglio, con grandissimo orgoglio lo dico, con grandissimo orgoglio. No, ma devo dirti una di serata più. Fantastica. Oh, beh, fantastico. Fantastica, però come fantastica. Vabbè, ma tu sei un coglione, lasciamo. Ma no, ma se a te piace che ti sputino in faccia, va benissimo. Ma che vuol dire? Ma chi mi ha sputato in faccia? Chi? Antonio chi? Marziale. Chi? Che mi ha scritto parente. Ah, che cosa vuole Antonio Marziale? Adesso ce n'ha per te, giusto? Che vuole? Di adesso Napoli, adesso di Napoli, che cosa? Sì, Napoli, adesso lo chiamiamo Marziale, Napoli. Girando, girando per, le, per il sale di montaggio, sì, c'era una grande teca con sì, tutte le, diciamo, i programmi che sì, vanno in sì, onda. Sì. E su uno scaffale a un certo, c'era un beta, una cassetta. Sì. Cosa vuoi dire? Numero uno. Radio Belva lì messo. Beh, allora... e vicino non c'era più solo quel numero, era proprio lì messo in una teca. Comunque, sai le teche con proprio te quelle... o senza di te prima o poi si rifarà, probabilmente senza di te, perché tu senza, rinneghi senza. Tutto no, tu io rinneghi non rinnego tutto. Niente sì, tu riconosco gli tutto. Errori ma non nego. Vabbè, ma sei un riconosco coglione, gli errori tu rinneghi tutto, io non rinnego, no, io niente non rivendico avanti ma tutta non mettermi in qualche bocca pezzo cose. Di Radio Belva, datemi qualche pezzo io di Radio Belva, io non rinnego, l'hai già fatto, l'hai già fatto, l'hai già fatto all'epoca, dico dove ho sbagliato, però a differenza tua io dico dove ho sbagliato. Fai ridere. Tu sei Fonzi, sei fai Fonzi. Ridere, fai ridere. Fonzi che non dice mai dai, scusa. Mettetemi, ma che scusa, sei un cazzo. Fonzi, sei scusa Happy Days, sei Fonzi. Ma sei vergognoso, tu. Dai. Fonzi, sei Happy sei. Days. Vabbè, yeah. Vai. Chiedi mai scusa, yeah. Ma scusa di che? Ma sei impazzito, scusa. Ma sei pazzo, sei. Perché viene. Ma tu... se ti sei battuto per ma essere no, nelle ma... liste, per essere un nominato. Non mi sono mai battuto, sì, io sono stato. Stare nelle liste, non ti, no, e non ti battuto... hanno messo nelle liste. Non mi sono mai battuto. Ma dai, Vittorio, per dillo però. Ma tu dici delle cose difamatorie. Ma io lo non sai. Mi sono mai... no, lo non sai, mi sono... volevi stare nelle liste con Berlusconi e non ti ci hanno ma messo. Ma non mi sono mai. Ma tazza di merda! Oh! No. Non ci sono mai voluto essere, non devi dirlo! No, io! Allora fai una cosa, documentalo, ti denuncio. Ma lo so, dai. Ma ti piccio in testa. Ma faccia dai, di merda. No. Ma guarda se devo sentire un cretino. Ho fatto esattamente il contrario. Viva sempre Radio Belva, sempre rivendicare, mai arrendersi. Ma chi si arrende? Non come questo qua, questo caca sotto ma se, qui. Ma perché Sgarbi devi dire Parietti, stupidaggi? Sgarbi, io non mi sono mai arreso di niente. Quello che dici, Sgarbi dico Parietti. Dico solo quando ho sbagliato. Sì, sbaglia, io non si sbaglia mai, Sgarbi mai Parietti. Mai si sbaglia, mai. Sì, si sbaglia, certo, si commettono gli errori. E ma allora poi non dillo è che... ogni tanto quando commetto un errore. Ti senti, ma quale errore, Sgarbi Parietti? Ma sei Fonzi, i Fonzi dei poveri sei. Sei un coglione. Sai Fonzi chi è Fonzi? Tu sei un imbecille, Sgarbi Parietti. Ma perché devi dire puttanate? Sgarbi Parietti, dai, Sgarbi Parietti. Sei Fonzi, sì. Yeah, no, io non cazzo. Sbaglio mai, yeah. Sei un poveraccio, sei Sgarbi Parietti. Sgarbi, prima ce lo li fai mostrare, che c'è da mostrare? Non devo mostrare niente. Loro rispettano la gente, attimo, non vanno rispettati. Però, non vanno rispettati. Vittorio, scusami, vanno mandati a cagare. Scusami, però Vittorio, chiaro? Ci sei solo tu e il tuo egoismo. A me non me ne importa un cazzo neanche di te. Non me ne frega niente, non me ne frega un cazzo. Loro rispettano la gente e vanno mandati a cagare. Raccapricciante, perché parli sempre solo di te. Io però me ne importa un cazzo di quello che dici, tu non hai un cazzo da dire. Però a me non voglio niente da dire, non dici un cazzo. Sai che cosa ti dico? Parlare di te è molto meno interessante. Ma non è che non litigare di me. Non litigare. Voglio che ti dicano che sei una troia, così vieni come no, tu. Voglio che te lo dicano. No. Voglio che te lo dicano, non te l'ho detto io, te lo dica lui. Vittorio. Fatti curare. Vittorio. Pubblicità. Fatti curare. Marco da Roma, Marco. Allora... bisogna essere solidali con i napoletani. Purtroppo questi hanno mangiato per anni la merda della terra dei fuochi e quindi evidentemente gli ha bruciato il cervello. Che c'entra questo, scusa? Come che c'entra? Sono bruciati, vanno, cioè sono bruciati. E prima Jenny la Carogna e poi quello col motorino che è stato ucciso e allora? Era un bravo ragazzo. Adesso questi qua 24 anni che con un tentato omicidio per l'aria compressa su un ragazzino di 14 anni, con la solidarietà di tutta la città. Non credo, la solidarietà, la solidarietà è di alcuni parenti innanzitutto. No, no, dimmi una voce di un napoletano che in questi sei mesi ha preso le distanze e ha detto c'è un problema reale a Napoli di civiltà. Io, ce n'è, è pieno di persone che da Napoli mi hanno scritto, eh? Cioè, è pieno hanno di scritto, ma dicendo non, che avevo ragione. Sì, ma non c'è stato un movimento così forte dei... Vabbè, allora che vuoi dire con che vuoi dire con questo? Spiegami. Che intervenisse il Vesuvio. Vabbè, ecco la coglionata, 19 e 29, no, ecco se la coglionata. Se tu gli dici dai. Che i napoletani sono ecco quella roba lì, non è cazzate, ovvio che arriva questo, non dai, cazzate, su. Non dire cazzate. Certo che è così. Non dire cazzate. Certo, non dire cazzate. Mi dispiace per te, ma le dico è come quello che penso, invece, scusa. Senti, se io gli dici che la colpa è dei napoletani, è un episodio di bullismo. Poteva avvenire in qualunque luogo d'Italia, purtroppo. Non ho invocato nessun Vesuvio, cretino. No, ma gli hai detto... Oh, ma vuoi smettere? Non ho sobbillato nessuno. Ti mando a fare in culo in 30 secondi. Non ho sobbillato nessuno, capito? Se tu dici, dico se tu che dici, penso. E appunto, e ti prendi e allora... le persone che dicono queste stupidaggini a un certo punto, si sentono legittimate a dire queste stupidaggini. Io le combatto queste stupidaggini. No, cosa perché vuol dire? La prima stupidaggine l'hai detta tu. Ma che cosa? L'hai detta perché tu? Non posso dire che certe dicendo cose avvengono solo in certe zone, non ho capito. Ma non è vero, è una stupidaggine. Vabbè, è una stupidaggine colossale. Pubblicità. Ma come vedremo? Episodi di bullismo ce ne sono ovunque. No, su, non è quella, dai, è la solidarietà parlavo. Ma quale solidarietà? Di famiglie, di amici? Certo. Un abbraccio forte. E guardate, ho visto che avete molta pubblicità, quindi guadagnerete moltissimo. Auguri e complimenti. Un anno fa, Radio Belva. No, no, chiedi scusa, tu non rompere i coglioni che tu, non rompere il cazzo a me, che se non rompi il cazzo che tu, non importa niente, non importa un cazzo neanche di me. Pubblicità, andiamo a pubblicità, siccome non è la mia permissione, vado a pubblicità. Disse ad Annarella non rompere il cazzo, ma non ce l'abbiamo, scusa, Annarella coso, Annarella Villaggio, la vecchia, ragazzi, la vecchia. Va bene, dai, andiamo. Sergio, Roma, pronto? Dimmi Sergio. Ciao. Ti volevo ciao. Commentare le tue affermazioni sulle cose che... Sì, però devi parlare più chiaro, devi staccare qualsiasi aggeggio, mettiti con la bocca bene attaccata al telefono, vai. Ok. Ok, senti? Un cazzo, dai, adesso, forza. E adesso mi senti? Ti sento, vai. Bravo. Allora, voglio commentare le tue affermazioni sulle cose che succedono solo a una certa latitudine. No, no, le sue cose che succedono. Attenzione, io non ho detto le cose che succedono. Sì, ti faccio parlare tranquillamente. Io non ho detto quello che succede, perché ho letto anche di diversi, ovviamente, atti di bullismo, anche gravi, con le pistole ad aria compressa, sparate, eccetera, in tutte le latitudini, anche ad Aosta, anche, sia chiaro, anche ad Aosta. Quello che non succede, spesso, in moltissimi casi, compreso quello di Aosta che mi hanno riferito, è la solidarietà della comunità familiare. Io quello dicevo e dico una cosa assolutamente vera, che ne dica Parenzo, quello che dite voi, eccetera. C'è una certa solidarietà familiare, esiste solo in certe zone, punto. Non ho detto una cosa razzista. Bisogna qualche volta le cose dire dirle per quello che sono. Spesso le madri difendono i propri figli anche quando fanno cose. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Non è vero. vero che c'è questa roba. Sto parlando, sono voi due. Vai, Sergio, vai, dimmi. Dai. No, io ero rimasto sorpreso quando ho sentito quello che hai detto. Poi ho letto su Wikipedia che sei nato a Roma e tutto mi è stato chiaro. Ma che c'entra, scusa, cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Non me ne frega niente. Io abito a Milano da 15 anni e non me ne frega niente né di Roma né di Napoli né di Torino, hai capito o no? Senti quel Marco che ha chiamato prima, è il classico romano. Vabbè, ma cosa vuol dire? Lasciamo perdere queste cose. Io lascio perdere Roma. Vabbè, ma tu sei razzista, sei tu. E innanzitutto razzista sei tu, perché hai guardato dove sono nato io, che non c'entra niente. Analizza le mie parole. Pensa alle mie parole, a quello che ho detto. Ogni giorno, mio caro. Vabbè, ma Sergio, tu lo puoi pensare come vuoi. Io ho detto quello che penso. Una certa solidarietà familiare c'è solo in alcune zone d'Italia, punto e basta. Non ho detto che bisogna sopprimere quelle persone. Va bene. Sono contrario alle cazzate che ha detto quello di prima quando ha parlato di Vesuvio, chiaro? Va bene, su questo me ne sono contento. Meno male. Però sinceramente non sono per niente contento che si facciano certe generalizzazioni. Pazienza, amico mio, se non sei contento noi ti facciamo dire che non sei contento, va bene? Ah, che bello. D'accordo. Che vuoi fare più di quello? Ma Romanaccio un corno, io abito a Milano da 15 anni e me ne fotto anche di Roma, hai capito o no? Cioè, Carmine, Napoli, dai, forza. Buonasera. Dai, sì, ti sentiamo, Carmine, vai. Allora, senti, guarda, io ti do pienamente ragione, sono napoletano, sì. Non mi sento assolutamente offeso dalla tua tesi e penso che tanti napoletani non si sentano offesi dalla tua tesi, perché è vero che succede dappertutto, ma noi non ci facciamo mancare niente. Però ti dico che queste cose vengono da lontano, ti spiego, io ho due figli, quindi voglio dire parlo anche da padre, e quando i miei bambini erano piccoli, 5, 6 anni, 7 anni, che all'inizio che si portano alla scuola calcio in piscina, sì. Io ironizzavo con i miei amici dell'epoca, che oggi sono tutti incazzati, tutti che dicono Madonna dove siamo arrivati, io dicevo all'epoca, quindi parlo di 20 anni fa, perché oggi uno ne ha 21 e l'altro ha 26, dicevo, ma secondo voi i miei figli, i nostri figli, generalizzavo, li dobbiamo portare in piscina, alla scuola calcio o al poligono di tiro? Penso che racchiuda un po' il mio pensiero, no? Che perfetto. Voglio dire che già all'epoca io vedevo che quello che noi stiamo vivendo oggi a Napoli, al Rione Traiano che io conosco, perché voglio dire... conosco benissimo il tessuto sociale, sto dalla mattina alla sera in mezzo alla strada, quindi capisco quello che dice Perenzo e succede dappertutto, ma noi purtroppo e soprattutto la cosa grave sono quello che dicono questi genitori che ci mettono a tutti in grave difficoltà. Allora uno mi scrive aspetta ma certo che è grave, aspetta, è Carmine, siccome Parenzo non vuole capire perché mi accusa di razzismo, le solite cazzate. Allora Giuseppe, stai zitto, ma perché hai detto che ho aizzato gli ascoltatori estremisti, va bene? Perché non dire stupidaggini. Non sto zitto per niente, perché a Trecate ad esempio in provincia di Novara, no, fammi citare questo ascoltatore, è stata smantellata una baby gang dove un ragazzo di 14 anni, io ho parlato delle reazioni della famiglia. Aspetta, è finito all'ospedale con la milza e il pancreas spappolati in provincia di Novara. Allora? A Treviso una ragazza è stata tormentata dai compagni, palpeggiata. Io sto parlando di un'altra cosa. Bisogna delle andare reazioni a vedere delle le famiglie. Reazioni delle famiglie di questi ragazzi. Vabbè, che sono dei non potenziali. Le sai. Siccome non le sai, non dire stronzate. Via, musica. Giuseppe Lamberti da Napoli ci scrive, la persona che ha appena chiamato, cioè quel non l'ultimo napoletano, quello di prima, che mi ha accusato di essere romano, è un gran coglione, lo specchio di quest'Italia di merda. Noi napoletani per bene siamo vittime dei tanti napoletani indecenti. Mauro, Roma! Tu mi citi dei casi su cui sono d'accordo, l'ho detto prima, in tutta Italia esistono casi simili. In tutta Italia esistono casi simili, certo. Certo, appunto. Uso questo linguaggio così capisci. In tutta Italia esistono casi simili. Vai avanti, dai, va bene, sì, hai ragione, perfetto. Vai avanti. Vai avanti, non me ne frega un cazzo. Mauro da Roma. Vai, vai. Dici cose che non esistono. Mauro da Roma. Vai avanti, mi interessa, dai. Sì, vabbè. Mauro da Roma, vai. Buonasera. Sì. Ce l'ho il tempo per esprimere il mio pensiero? Certo che ce l'hai. Io sono esterrefatto più che altro dall'editore di Radio 24. Sì, oh, ridaglio questa cosa. Uff, che fastidio, vai su. Oh, l'editore di Radio 24, sono esterefatto. Dai, forza, vai, Mauro, fa, io ascolto la tua cosa. Radio Nazionale, la posso dire, sì. Sì, certo, tu puoi dire quello. In questa trasmissione si può dire di tutto, anche delle cose contro di noi, capito? Tu che vuoi protestare contro con l'editore di Radio 24, puoi dire delle cose anche contro di noi, chiaro? Mauro, di quello ma che ti pare. Posso parlare? Certo che puoi parlare, non ti preoccupare. Sono esterrefatto dall'editore di Radio 24, non ho detto voglio protestare. Vai con la dichiarazione. Ho detto la mia opinione, sono esterrefatto. Io sono una persona che ascolta Radio Nazionali. Sì. Ascoltavo Radio 24 come riferimento, mi ricordo che questo programma è nato sotto Sant'Almassi. Vabbè, ma non ce ne frega niente adesso, cioè, siamo nel 2014, e capito? Ho smesso di ascoltarlo ora che ci stai tu. Oh, benissimo, stai. Applausi a questo qua. Facciamo un bel applauso a Mauro, vai. Facciamo un bel applauso, un attimo. Oh, eccolo qua, bel applauso. Vai, 19.45, vai. Ascolto con piacere Roberta Giordano. Bene, non me ne frega una mazza di quello che dici, di chi ascolti, non me ne frega una mazza, però lo puoi dire tranquillamente. Disgraziatamente, provo a sentire se è cambiato qualcosa, se riaccendo la radio e sento parlare di orgasmo vaginale o orgasmo clitorideo. Sì, ne parlano tutti i giornali di orgasmo vaginale, di orgasmo clitorideo. Non ti interessa la cosa? Non ti interessa? Non ti interessa l'argomento? Non ti interessa l'argomento dell'orgasmo vaginale e dell'orgasmo clitorideo? Ti interessa o non ti interessa? Ti ha risposto con decenza già Parenzo. Ma Parenzo... Le persone che hanno un po' di cervello ne parlano dentro casa. Ma Parenzo può scegliere se stare in questa trasmissione oppure di andarsene, può fare quello che vuole. Una trasmissione di Radio 24 della Confindustria con uno che dalla mattina alla sera cazzate, che me ne frega, vaffanculo, merda, cazzo, lo so dire pure io, ma mi vergogno. Brava, vergognati, bravo, vergognati. La cosa è veramente è stupefacente. Oh, che bello, quanto mi piacciono queste telefonate, sono favolose queste telefonate. Perché non chiamano tutti i giorni persone così? Che qualcuno lo sa perfettamente. Sì. Addirittura ci rifacciamo a un signore che si definisce giornalista, che tutta l'Italia ha capito che diceva certe cose succedono solo a Napoli. Dopodiché sei così volta faccia e così meschino da negare di aver detto quello che hai detto. Sì. Non sapevi neanche che la stessa esatta cosa è successa a Roma, ad Ostia, due operai hanno messo il compressore al sedere del compagno lavoratore. Io non ho parlato di questo, io ho parlato di un'altra cosa. Io ho parlato di un'altra cosa. L'argomento, quando uno fa una brutta figura, uno con la va bene, ho detto quello che dici. Ho detto quello che dici tu. Ti voglio dare ragione, guarda, ti voglio dare ragione. Dovrebbe cercare di fare qualcosa di meglio, perché è una vergogna una trasmissione condotta in questa maniera. E siccome un pizzico di intelligenza ce l'hai, insegnare agli italiani a parlare male, maleducatamente, utilizzare il turpiloquio come cosa divertente, come quell'idiota che io quando vado a casa mi voglio divertire. Che bello, che cosa straordinaria queste telefonate. Sentire trasmissioni come cose terribili, tipo spiegaci bene come funziona il buco. E non sai quello che succede adesso. Spiegare come funziona il buco. Certo, ma non sai quello che succede da qui e non sai quello che ci ridere in una maniera intelligente. E non saprai quello e non sai nemmeno con i cazzo, con i vaffanculo. Sì. È una vergogna e fanno schifo. Bene, non sai ragione quei signori che ti hanno già chiamato dicendo io quando c'è questa trasmissione mio figlio gli faccio chiudere le orecchie, non perché non le conoscano le parolacce, ma perché preferirai un mondo migliore. Bene. Il migliore è rosa, fiori, profumo, vita, non cazzo, culo, merda. Rosa, profumi, vita. Migliorati, puoi essere una persona. Senti, amico mio, ma lasciamolo parlare, che è fantastico, lasciamolo parlare, la dai. La solidarietà per le solidarietà in tutto il mondo. E tu ti stai cercando di nascondere dietro un dito, non solo non sapevi che quelle cose sono già successe, l'identica cosa con un compressore ha fatto scoppiare l'ospedale Grassi di Roma, Ostia, è morto un povero disgraziato per la stessa idiozia 10 anni fa circa, e non lo sapevi, dicendo queste cose non succede solo a Napoli, dopodiché quando vieni scoperto con la cioccolata in bocca, comincia a dire ma io parlavo di un'altra cosa, migliorati, se puoi migliorati, la possibilità c'è. Hai finito? Ah, se vuoi è finita? No, continua. Puoi continuare se vuoi. No, dimmi. Puoi continuare se vuoi. Hai finito, sì o no? A me piace argomentare. Hai finito o no? No, ma io non ho niente da dire. Hai finito? Una cosa buona. Hai finito? Tu hai non finito? Sai che parlare da vai, una radio. Ha ricominciato, meno male. Vai. Parlare da una radio ha ricominciato. Parlare da un pulpito, te l'ho stupendo. Già detto 7 anni fa. Stupendo. Parlare da una radio e parlare da un pulpito, quindi è un modo di insegnare agli italiani come parlare. Io preferirei insegnare agli italiani che differenza c'è tra consueto e desueto. Se ha un senso usare il termine desueto, che ormai non usa nessuno, mi piacerebbe spiegare agli italiani che o piuttosto che sono due cose ben differenti, invece che parlate tranquillamente con cazzo, culo e queste cose continuamente. È una vergogna che Radio 24 faccia una cosa del genere. Forse una lavatina di capo a te ti farebbe bene. Hai finito? Ma se vuoi continua. Hai finito, continua, vai. Devo andare a prendere servizio, purtroppo. Quanto tempo ho? A nanna, vai a nanna, ciao. Fate schifo. Sì, lasciatevelo dire. Silenzio la vecchia! Si apre! Silenzio la vecchia! La vecchia e la signora? Vuol sapere, Sgarbi intanto fa l'incazzato la gente. È una presenza inquieta. No, perché noi viviamo la un momento di imbarazzo totale. Sì. E tu devi rispondere e darle un consiglio. Sì. Si vuole rifare la faccia come hai fatto quello. Sì. Mi dispiace. Quanti soldi domanda la vecchia? No, pochissimo. Beh, un milione. Spero che si sia fatto una bella dose di tranquillante quello là, va, così va a nanna tranquillamente, Mauro da Roma. Una bella nannetta stasera, professore, vai. Vai professore, a nanna, su, a nanna. Radio Belva un anno fa, Gianluca Buonanno, europarlamentare della Lega Nord, buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Ciao. Gianluca, ma perché hai dato del frocio e del finocchio al presidente dell'Arcigay? Intanto devo dire che era tutto premeditato, perché io stavo facendo... Lui dice di no, lui dice di no. Vabbè, guarda, c'ho anche i testimoni, quindi io stavo camminando insieme ad altre due persone per andare in ufficio e il filmato che hanno poi mandato in onda casualmente dopo un'ora, quindi c'era uno lì che filmava. Lui dice di averti semplicemente incrociato là, perché no, erano lì per la cosa di Concita Wurst, là per il concerto di Concita Wurst. Wüster la chiamo io, Concita Wüster. Perché Concita Wüster? Perché c'è la barba, è un uomo e si traveste da donna, quindi è un Wüster, non è un Wüster. Wüster. Tra l'altro la comunità europea, con tutte le grane che ci sono, porta questa qui a parlare e a cantare. No, ma scusa, io non ho capito, Concita Wüster perché i Wüster si travestono? Wüster, perché essendo un uomo... C'ha il Wüster, dice, perché c'ha il Wüster sotto, certo, capito? Capito Parenzo il collegamento, qual è stato? Vabbè, comunque io sottile stavo camminando tranquillamente, quindi non sono andato a cercare nessuno, non sono andato dove c'era la Wüster, non facevo niente. Si è avvicinato sto tipo che prima mi ha toccato dentro da dietro, no, con la spalla. Come ti ha toccato? Poi mi si è piazzato davanti a 10 centimetri da me e quel pezzo lì ovviamente la telecamerina del suo amichetto non c'è. Cioè che cos'è che hanno tagliato? Che pezzo hanno tagliato con Flavio Romani? Il pezzo dove praticamente questo qui prima mi si è messo davanti a 10 centimetri dalla faccia, no? Toccandomi dentro, quindi... Ma toccandoti dentro dove? Ma no, con la spalla, no? È passato, ti ha sfiorato? Sì, ma certo, no, vabbè, ma per dire, no? Con tutto lo spazio che c'era, che cavolo devi fare? Vabbè, insomma, e poi si è messo a 10 centimetri da me e ho cominciato a dire delle cose. Io, come si vede dal filmato, neanche gli davo... Cioè, quando mi ha detto subito sono presidente dell'Arcigay... ho detto vabbè, niente, sentivo così. Poi questo qui però, come vedete, istigava e cercava così, alla fine gli ho detto senti, se sei frocio non è un problema mio, cioè a me dà l'idea, e lo voglio ribadire qua, io non ho niente contro gli omosessuali. Sì, però scusami, detta così ringrazia che non ti ha dato una testata, diciamo. Perché? Come perché? Cioè, doveva dargli una testata, non l'ho capito. Ragazzi, dove vivo io c'è una regola: se uno mi insulta pesantemente, e mi parte anche la. Gli dai una testata. Mi dà una testata. Ma cioè, il pacifista Parenzo. Ma non sono pacifista, manco pacifista. Pacifista Parenzo gli dà. Le cose. Da una testata. Se uno mi passa vicino e mi dice ebreo di merda, io gli do una testata. Ah, no, ho capito. Ma io non mi capisco. A parte che sai benissimo che se ti dice nulla, perché io non è che mi faccio offendere come te da qualunque persona. Non mi piace farmi offendere. Non vado in galera da nessuna parte. Ti prendo per l'orecchio e ti dico amico mio, guarda, tu hai detto una testata, prende per l'orecchio un'altra cosa. No, virgolettato, gli do una testata, ripetilo e mandalo 50.000 volte. gli do una testata in faccia perché non mi faccio offendere. Dunque, secondo te, una testata, no, non c'è secondo me, è chiaro. Dunque, secondo te, se uno mi insulta e mi offende, dunque, pesantemente, secondo te, secondo me, niente. Buon anno, gli do buon una testata. È vabbè, stato fortunato perché se, da, se a uno allora gli dici, gli dai del frocio, allora, così, no, allora ti meriti così che qualcuno ti tiri un piccolo calcio del sedere senza farti del male. Una testata, hai detto. Sì, ripetilo ancora, una testata. Col sangue che ti esce, se vuoi. Ripetilo ancora. Ma io lo sto dicendo tranquillamente. Senza dubbio, mamma, Flavio sì, Romani, una testata. Flavio ti do, Romani, ti senza do nervosi, testata. Non ti nervosi. Non ma no, perché caso dici cazzate sempre. Io sto dicendo iperbole sempre, ti, sì, una testata col sangue, gli spacco l'insetto nasale. Vuoi che vada avanti? Vado avanti ancora? Dicendo? Ma che stai cioè, dicendo? Cioè, se ti piace, lo rendo più palpe, se vuoi. Senti, amico mio, o ti calmi oppure, oppure la porta è lì, Sono anche cioè, o ti calmi oppure la porta è lì. Posso usare iperbole ancora più forte. O ti calmi oppure la porta è lì, perché non sto cercando iperbole. L'hai sempre usata in tutta la tua vita, se non le vuoi più usare le iperboli, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Sì, ma ti devi calmare perché dobbiamo andare avanti. Boom, così, ti devi calmare. Ma io sono calmissimo. No, ma ti devi calmare, divertito. Lo dico sul serio, sono lo devi anche divertito. No, non sei divertito, boom, ti devi testata calmare, ti devi faccia, ti devi calmare. Testata. O ti calmi durante la pubblicità oppure sono la porta è là vicino. Allora c'è un professore che non dico nemmeno come si chiama perché tanto non vale la pena, il quale scrive: non disturbarti, amorale, patetico. A parte che io adoro queste persone straordinarie, meravigliose, ne vorrei milioni. Non disturbarti nel tentativo vano di migliorarti. Non faccio nessun tentativo di migliorarmi, non ti preoccupare caro signore, che non ti nomino nemmeno perché non è il caso, non ti conosce nessuno, non è un problema. Un utente qualsiasi di Twitter, di quella specie di porcaio, ma che uso anch'io tantissimo, che è Twitter, pieno di porcherie e di cose eccezionali. Demagogo amorale, bellissimo, demagogo amorale, stupendo. Un po' mi riconosco in questo, demagogo amorale, non demagogo, ma insomma conduttore radiofonico e dunque anche un po' demagogo ogni tanto, amorale, beh sì, amorale può essere, sì, se uno la considera una cosa, patetico, beh patetico è un altro discorso, patetico secondo alcuni, patetico secondo altri no, beh bellissimo queste cose, ti amo, ti adoro. Migliorati, se puoi migliorati, la possibilità c'è. Allora, secondo David Parenzo, Flavio Romani doveva essere sostanzialmente, doveva dare una testata, poteva dare una testata, uno schiaffo, doveva reagire bene in maniera, gli è andata, diciamo. Sì, no, sto dicendo, sì, in sì, maniera sì, molto bene, pacata. Bene gli è andata. Secondo David Parenzo, io ripeto, il pacifista, se posso fare una provocazione, no, forse è impedito sono, fare provocazione. Non sono pacifista. Non sei pacifista, stato secondo pacifista, l'uomo di sinistra, diciamo. Ma non è di sinistra, se uno mi offende. Ma lo posso dire o no? Posso fare no, una provocazione oppure no? Sì, ma non è sinistra o destra. No, vabbè, no, l'uomo, se uno secondo per strada, David Parenzo, che non si possono fare altre considerazioni. No, puoi farle, ma non è destra o sinistra. No, no, penso no, che chiunque. Secondo David Parenzo, se uno per strada mi offende con quelle sì, cose che ti ho detto. Io se uno mi offende non gli do una testata, però no, poi ecco, io magari mi partono i tre minuti e gli tiro una testata. Ah, beh, infatti se mi offende, detto sicuro, secondo, sicuro. Secondo Parenzo, allora senza aggiungere altro. Sì, non c'è da sinistra o no, destra. No, infatti certo, no, per carità, non si possono più fare provocazioni, battute, no, cose, per carità. Sì, sì, sì, tutte uno, sciocchezze. Perché pacifista non sono mai stato io, no, come no, sai. No. Allora, pacifista non sono no, io. No, no, no. Allora, buon anno che è con noi, Gianluca Buonanno, europarlamentare della Lega Nord. Secondo Parenzo, Romani doveva reagire quando tu gli hai dato del frocio. Gli hai detto frocio, anzi hai detto se sei frocio non è un problema mio, è legittimo, sarebbe stata legittima la reazione di Romani con una testata, con una testata. Sì, questo sostiene Parenzo, questo vabbè, sostiene. Ma lo dico a tutti, è urbi e torbi, tanto che sia chiaro, no, non è che lo stiamo che dicendo, non mi stupisce perché come si vede dal filmato, già dei pezzi che hanno tagliato, poi c'è anche la parte finale che hanno tagliato dove lui cercava di entrare nell'ascensore E un dirigente inglese, una donna, gli ha urlato dietro di andare via e di non rompere le scatole. Cioè, questo qui poi ha tagliato il filmato, perché c'è un pezzo del filmato dove lui poi torna indietro e vuole entrare nell'ascensore. Però, francamente, minacciato mi sembra un po' troppo. Tu hai detto sono stato minacciato, inseguito, eccetera. Tu l'hai detto. Io cammino per i fatti miei, insieme ad altre due persone. Questo qui mi tocca dentro, mi si piazza davanti, mi parla a 10 centimetri e mi dice: lei non si permette. Se uno voleva parlarmi tranquillamente, mi diceva: mi scusi. Diceva chi era, posso parlare lui, conoscendo tutte le cose che tu hai detto, lui conoscendo tutte le cose che tu dici quotidianamente, non in un salotto chiuso, ma pubblicamente facendone battaglia politica, è venuto lì e te l'ha fatto osservare. Tu non contento, adesso dimmi che gli hai anche educato. Dato del aperte virgolette frocio. Allora capisci bene che se questa non è una provocazione, e poi benissimo, si dichiarano omosessuali, sono orgogliosi. Io gli ho detto solo perché è una bestemmia, una parolaccia dire così. Beh, però cosa tu hai associato la parola frocio a parola problema. Cioè, allora, ma diciamo sì, questo ma se loro hanno questi problemi interiori e non riescono a esprimere, ma non è un problema mio. Cioè, io volevo ma che problemi interiori hanno? Scusa, che problemi interiori hanno? Ma non so, perché sembra quasi che abbiano delle difficoltà e vogliono estraniarle cercando conforto da qualcun altro e cercando la rissa. Io non, ripeto, non ho niente contro gli omosessuali, ma se io non faccio niente, ma non venirmi a cercare per cercare poi alla fine di istigarmi, perché io poi ti rispondo per le rime. Cioè tu stai dicendo ti è venuto a cercare per provocarti, per fare ma una rissa, certo, ti si è messo palese, vicino per no? fare una rissa. Ma è palese, perché dopo 5 minuti che è successo questa cosa è già uscito un Twitter di un eurodeputato del PD che le ha portate lì una cinquantina di loro. Omosessuale anche lui, sì? No, non lo so. Sì, non sì, lo so, sì. Non lo conosco. Sì, sì, assolutamente, ma è ufficiale, cioè, nel senso, lo scrive pure su Twitter, non so come si chiama. Va benissimo, faccio quello che crede, che si sente. Dopodiché però non può dopo 5 minuti scrivere già così, era già tutto predisposto. Vabbè, io però tu gli hai risposto: se sei frocio non è un problema mio. Così e dopo che continua a rompere così, cosa gli devo dire? Finocchio, scusa, anche allora finocchio di merda. Cos'è che ti ha detto finocchio? Se tu sei un omosessuale non è un problema tuo. Dire frocio omosessuale c'è tanta differenza. Beh, un po' secondo me nel contesto però, sì, diciamo. Hai associato. Ma scusa, allora cosa giochiamo? Cioè, l'hai detto con una certa, però scusa Gianluca, in quel contesto l'hai fuori detto, di dubbio l'hai che detto è in maniera se sei frocio non è un problema mio, cioè dicendo che essere frocio è un problema. No, era per lui, perché se mi viene a dire lei non si permette di dire di fare così, ma scusa, se tu ti senti offeso è un problema tuo, io non voglio offendere nessuno, dico le mie idee, le ribadisco, ma io non ce l'ho con nessuno, però non mi si venga a dire che sono io che vado a provocare, che vado a cercare, perché io ho preso una massima di D'Annunzio, non ti meo culices, e l'ho detto anche in Parlamento, cioè non mi danno, cioè praticamente non temo le zanzare, l'ho detto anche in Parlamento che culices non sta per culi ma sta per zanzare, e io voglio stare tranquillo, queste cose qua mi fanno un baffo, però mi dà fastidio che vogliono poi passare per vittime per poi riuscire ad andare alla ribalta usando Buonanno e facendo vedere che Buonanno è un omofobo. Ma c'è una lobby gay al Parlamento Europeo? Una lobby gay, c'è un esercito, cioè qui alla fine la dittatura delle minoranze c'è. Cioè come un esercito di gay, non ho capito. No, ma veramente ce ne sono tantissimi. E come mai? Anche nei posti notevoli. Cioè? Che ne so io perché, non lo so io perché, sta di fatto che comunque è così. Come nei posti notevoli, non ho capito, nei posti notevoli? In posti molto importanti all'interno della struttura, della comunità europea. Cioè tu dici che... Dopodiché a me non me ne può fregare di però meno. Però hai notato questa cosa, che c'è un vero e proprio esercito di gay che condiziona le scelte, ti dici tu, condiziona tutto. Beh, allora, adesso dire che il problema, io ve lo dico perché è la verità, a Strasburgo si parlava di questioni dei gay, mettiamo omosessuali, di un paese africano, di un problema di un paese africano, e questa è la priorità della comunità europea a Strasburgo, non è la priorità il virus Ebola, non cioè, è la priorità cosa, il lavoro. Che cosa hanno fatto? Hanno discusso una mattina di questioni che riguardavano problemi in un paese africano dove c'era la questione che gli omosessuali venivano perseguitati. Vabbè, ho capito, quello sarà il Parlamento Europeo. Ma io ho detto, scusate, ma ci sono altre cose, sarà importante quello, ma pensiamo all'Europa, il virus Ebola, il lavoro, le difficoltà della gente. Cioè tu dici che molte cose vengono anche alla presenza di Concita Wurst, che tu chiami Wurster. Ma no, ma dai, ma non è possibile. Poi invece si fanno le paranoie se viene il Papa, come verrà a novembre. Cioè perché qualcuno storce il naso? Qualcuno storce il naso su questo? Ammazzalo, che qualcuno sorcena? Ce ne sono diversi anche che hanno detto chiaramente che la figura del Papa non deve entrare in Parlamento. Cioè, questo esercito gay che stai dicendo si oppone alla presenza del Papa. No, io non ho detto che sono i gay, io ho detto che in generale lì la situazione è che veramente... se tu dici che sei cristiano e tu dici che sei eterosessuale, sembri davvero una minoranza. Cioè, mi sembra davvero che quando uno dice eterosessuale, alla fine sembra quasi un difetto. Io non dico difetto, cioè, degli ti senti altri, al Parlamento europeo ti senti un po' estraneo qualche volta da eterosessuale. Vabbè, certo. Ah, ci mancherebbe. E poi ti dico di più, che secondo me uno che è omosessuale ha dei vantaggi rispetto all'eterosessuale. Addirittura, al Parlamento europeo, cioè? Cioè, che nel fatto che nella comunità europea vedo che gli omosessuali sono garantiti, riveriti e serviti. E l'esempio di ieri è eclatante. Ma che vuol dire garantiti, riserviti, serviti e riveriti? Non ho perché capito. Sembrano, come dire, come se avessero un'immunità permanente, no? Cioè, si vantano di queste cose, a me dà fastidio anche quello, si espongono a far vedere che sono omosessuali e sembra quasi che abbiano il passepartout su tutte le cose. Cioè, ma hanno posti migliori secondo te? Che abbiano posti migliori non lo so. Però sono favoriti. Sono un po' di tutto. Però devo dire che alla fine mi sembra quasi davvero che l'omosessuale possa avere più vantaggi rispetto alle cioè ti senti un estraneo, diciamo la verità, ti senti un po' un estraneo. Ma no, io mi sento di difendere le mie idee, io sono contro le adozioni omosessuali e contro i matrimoni tra omosessuali e continuo a dirlo. Dopodiché per il resto facciano come credono, però poi quando ci sono le sentinelle come è successo che qualcuno l'ha menato, allora va bene tutto. Se fosse successo il contrario sarebbe venuto fuori lo scandalo. No, guarda, la cosa è molto più semplice, tu hai offeso quella persona. Non è vero che l'ho offesa. Questo è fuori di dubbio. Scusa Parenzo, questo è fuori di dubbio. Se io ti dico Parenzo, sei un uomo di sinistra, ti offendi? No. Vabbè, tu l'hai detto frocio, non hai detto se così, sei frocio, no? È un problema mio. Non dai, giocare questo. Così, non puoi uscire. Cioè, sei troppo intelligente per usare questo artificio con me o con chiunque ti sta ascoltando. E con un modo, diciamo così, indisponente. Lo hai provocato e sei stato fortunato. Lui ha provocato. Quello si è avvicinato per chiedergli spiegazioni normali rispetto a tutto quello che lui dice da mesi, da anni. Vero. E vabbè, questo ne abbiamo discusso tante volte, se è giusto, se non è giusto. Sei stato fortunato perché dopo tutto quel che dici, questo si avvicina magari dicendoti, allora eccomi qua, dimmelo in faccia. E tu glielo dici in modo così provocatorio e offensivo, a mio modestissimo. No. Avviso. Ti ripeto, se lo rivedo, cosa devo fare? Allora, secondo te Parenzo devo fare? Non lui arrivava, offensivo. Devo fare. Oh, ciao, non ci sono più offensivo. Aspetta, scusa, Gianluca, che cosa dovevi fare secondo Parenzo? No, secondo Parenzo cosa devo fare? Dire: ah, ciao amore, sono Gianluca Buonanno, come va? Ti trovi bene qui? Cosa devo fare? Bravo, io sono offendilo così, offendilo ancora, bravo. Penso che la gente che ascolta, che è più intelligente di te, non è offensivo. Guarda che io con quella persona, se lui mi chiama e mi dice gli hai fatto anche il verso imitando, facendo passare, gli hai fatto anche, non occorre spiegare perché la gente è molto intelligente che ascolta, quindi gli hai fatto pure il verso facendo passare il messaggio che l'omosessuale, quindi sei talmente offensivo che devi ringraziare che fino a oggi nessuno è stato mandato a quel paese, ma devi solo ringraziarlo. Ma per amor devi solo ringraziare, perché se continui così poi non ti puoi stupire se qualcuno per strada adesso non ti manda a quel paese. Stava facendo una battuta. Ma fa tutto ridere, va benissimo. Se uno mi offende però sarà anche una battuta, ma mi offende perché se io fossi omosessuale. Ma ti offende perché sei omosessuale? Ho ma detto, io non so, se è come io... quelli che dicono che sono comunisti. Tu gli dici, sei un comunista. Allora te lo faccio su di me. Lo faccio su di me. Ti faccio su di me l'esempio. Se qualcuno per strada mi dice ebreo di merda, io mi offendo, sono strano io. Nel vostro mondo, tu lo di Cruciani, di merda, no. Nel vostro mondo non c'è nulla di strano. Nel mio, che non pretendo essere la maggioranza delle persone che ascoltano, ma credo di sì, nel mio, io mi offendo e penso con me molte altre persone. Ma penso, scusate se mi offendo. Tu, Nel vostro mondo le regole sono diverse, nel mio sono queste. Io siccome non ho detto nulla, non capisco come vai a interpretare però fate quello che volete. Il mio mondo. Ognuno ha le proprie cose. Beh, si capisce, il tuo mondo è chiaro, quello che dici. quindi interpreta il mio mondo. No, interpreto, ascolto quel che dici. Come tu ascolti quel che dico io. Io mi offendo per queste cose, sì. Chiamatemi strano. Io mi offendo in maniera educata a dirmi: posso parlare un attimo? Ma stai giocando con le parole con me? Ma non ho capito. Stai provando a giocare con le parole. Allora, riporto la questione. Gli hai dato del frocio in un contesto di litigio, in modo sprezzante. Ma scusa, ma in modo sprezzante. Per me quella è un'offesa, è abbastanza chiaro. Finocchio gli hai dato, anche Finocchio. Perché non è la stessa cosa. Vedi, allora. Gliel'hai detto in un certo modo. Talmente chiaro. Detto questo, c'è qualcuno che vorrebbe portarti in tribunale, magari Parenzo, per aver dato le froce del Finocchio in quel modo. Perché qualcuno pensa di portare in tribunale Buonanno, che può avere sbagliato oppure no a reagire in quel modo. Tu lo porteresti in tribunale, Parenzo? Se uno ti dà il frocio del Finocchio in quel modo lì? Se sei frocio è un problema tuo. Buonanno, vai da Tyson e digli negro. Vediamo che fine fai, dai. Vediamo. No, negro non gli frega niente a Tyson. Vai lì, vai da Tyson. Tyson, l'esempio vai lì, è Tyson. Vai lì provocatore degli Negrone, vediamo che fine fai. No, ma io non ho cercato nessuno, scusa, poi ieri sera ho sentito che anche senza fidanzato, no? Sì, è senza fidanzato. Se lui mi invita una sera a prendere qualcosa da bere, io ci vado, c'ho mica problemi. Ha detto che non gli piace però, eh. Ma mica per quello, ma ci mancherebbe altro, perché io, ditemi tutto, ma non che sia un omosessuale. Dopodiché però... Beh, ditemi tutto, non è che adesso se uno è omosessuale, non è che se ti dicono che sei omosessuale ti offendi più che ti dicono, che ne so, che sei malato. No, allora, siccome non me ne frega niente, se mi dicono omosessuale mi viene da ridere, capito? Quelli che si offendono evidentemente si sentono colpiti, ma sono gli stessi che si sentono colpiti perché lo sono e cercano di farlo vedere in tutte le maniere. Quello è il buffo della situazione. Ma scusa, non potevi mandarlo a quel paese e basta senza appellarlo con il termine frocio e finocchio? Cioè, la questione sulla quale io mi sono inalberato è semplicemente questa. Perché se tu gli dicevi, guarda, vai a quel paese, io non penso che sarebbe venuta fuori tutta questa canea. La cosa per la quale io mi sono arrabbiato, ma sono un problema io, no, non tu, figura. No, è pieno di gente che si è arrabbiata, pieno di gente. Ma sono strano io, figuriamoci. È pieno di gente che si è arrabbiata. Ma sono strano io, è pieno normale, di gente che nessuno si arrabbia mai. Ma è pieno di gente che si è arrabbiata, non ti preoccupare, è pieno di gente. Credo, ma pieno di gente normale si arrabbia. La prossima volta dirò, lasciami stare, non è un problema mio. Ma diglielo magari in un certo modo, no? Diglielo in un certo modo, forse è meglio. In un certo modo come? Come prima, come volevi dire. Dico, scusami tesoro, non lo farò mai più, perdonami. Esatto, diglielo così, vediamo cosa succede. Adesso, la prossima volta, tutti quelli che mi verranno a cercare, che siano lesbiche, gay, così dico, amore, ti chiedo scusa, amore mio, però non lo faccio più. Vediamo che succede. Bravo. Sono brutto e cattivo. Ecco. Bravo, fallo così, vediamo. Però devo dire che è numero uno da questo punto di vista. Perché di fronte agli attacchi che ha ricevuto, omofobo, eccetera, eccetera, dice: la prossima volta non reagisco in modo forte, non dico più frocio, non dico più finocchio, ma dico amore, tesoro, non lo faccio più, tesoro, non lo faccio mai più. Facciamo un duetto, Gianluca, non lo faccio mai più, non lo faccio mai più. Poi per concludere posso dire: dai, scusa. Lasciami pure, non lo faccio più. Esatto. Ciao Gianluca Buonanno, ciao. Ciao. Amore, ti chiedo scusa, amore mio, però non lo faccio più. Più. Dai, sculacciami pure, non lo faccio più. Sono brutto e cattivo. Ecco. Quello che avete sentito era l'europarlamentare Gianluca Buonanno, che ha detto: la prossima volta che viene qualcuno, qualche attivista gay, a rompermi le scatole, reagirò in questo modo. E vediamo che succede. Mamma mia, come sei serioso stasera. No, sono molto divertito e rilassato. Come sei serioso questa sera? Come sei serioso? Come sei non serioso? Mi senti come sono? Sono come contento. Sei serioso stasera? Come sei perché serioso? Perché serioso? Anzi, sei molto serio stasera. Sei molto serio stasera. Adesso per farti scaldare un po'. Mi fate ieri, sorridere. Sì, ma chi? Mi fate chi? Mi fate sorridere chi? Con queste tesi. Voi due mi fate sorridere. Voi due chi? Te lo devo spiegare. Voi due chi? Non c'è più nessuno qua, siamo io e te. Voi due chi? Mi fate sorridere. Voi due chi? Tu con le tue tesi e lui con le sue. Ah, io le mie tesi quali? Quelle che abbiamo sentito sinanche. Quali? Sinora, quali sarebbero? Quelle che abbiamo sentito fino adesso, no? Luciano da Napoli, Luciano da Napoli, siamo al delirio. Buonasera. Luciano da Napoli. Volevo riprendere un attimo il discorso del ragazzo, sì, di Napoli. Certo, no, come no? Sì. Così. Tanto cioè, spero che questo signore di 25 anni ci faccia 25 anni di galera, perché se a quell'età non capisce i danni che può fare, è pericoloso, certo, no, potrebbe creare altri danni, no? Quello è chiaro. Siamo d'accordo su questo. Beh, non si, due, siamo d'accordo. Non visto, diciamo, per esempio, alcuni membri della famiglia intervistati non erano molto d'accordo. Comunque, sì, noi siamo d'accordo, noi civili siamo d'accordo. E volevo dire qualcosa pure a proposito di questo. Sì. Non ho visto i parenti, per esempio, della signora di Cogne prendere le distanze. Ho visto il marito farci un figlio dopo una settimana. Mai detto come sosteneva il pazzo scatenato di prima, che poi è andato a nanna perché si è preso un calmante. Mauro da Roma, non so come si chiamasse l'ascoltatore prima, mai sostenuto nemmeno per un secondo che alcune cose che si chiamino bullismo, delinquenza, eccetera, accadono solo a Napoli. Mai sostenuto nemmeno per una frazione di secondo, chiaro? Chiaro? Chiaro? Io parlavo solo dei parenti, della solidarietà familiare. È diversa, ma è diversa la cosa. È diverso. È diversa la cosa. Pensa che sia innocente, non ha nemmeno detto, non lo so. È diversa, è una cosa molto diversa. Non si può paragonare. Non si può paragonare. Bocciato, bocciato. Bocciato, bocciato, sì, bocciato. I cretini stanno dappertutto. Ma non c'è dubbio. Ma no. Bene, quel signore che ha chiamato, che ha parlato del Vesuvio, sicuramente non è di Napoli. Guardi, a me non mi interessa. Pari, tranquillamente. Scusi, Luciano, a me che sia di Napoli, che non sia di Napoli, non mi interessa. Non mi interessa assolutamente. Non me ne frega nulla se uno chiama e dice sì, sono di Napoli, sono di Roma. Il signore che ha detto il Vesuvio deve fare il suo corso. Vabbè, ma quello è un cretino. Ma quello è un indeficiente, un imbecille. Quello è un cretino. Quindi vede che non è un fatto di Napoli, i gradini sono dappertutto, questo va bene? Sì, ma questo insomma, siamo d'accordo. Ciro da Napoli, Ciro. Giuseppe, buonasera. Ciao, Giuseppe. Ciao Io Ciro. Io volevo ciao. Continuare ancora su questo argomento. Sì, vai pure, tranquillamente. E mi ha colpito molto, perché io sono un napoletano, vi dico, sono come tutti i napoletani per bene, esasperato. Io mi vergogno di essere tutti i giorni rappresentato come la schifezza della schifezza. Noi non ce la facciamo più. Io vi voglio fare una domanda, ma voi veramente credete che quelle persone alle quali viene dato tanto spazio sui media oggi sono i napoletani? Quella è la feccia dei napoletani. Di chi sta parlando? Dei familiari? Dei familiari, esattamente. Ma certe cose. Meno male che qualcuno parla. Meno male che qualcuno parla con la mia lingua. Meno male che qualcuno parla con la mia lingua. Io non ho detto nulla di diverso se non quello che dice questo signore qua. Esattamente, però io ti voglio dire questo, scusa Giuseppe. Ma come puoi pensare che un fatto del genere possa accadere in una famiglia di persone normali? No, ma certo, ma non c'è dubbio, ma è ovvio che può succedere in qualsiasi io a parte non mi riferivo solo a Napoli, quando, ma questo non c'è dubbio. Io ho semplicemente detto che alcune relazioni familiari, alcune solidarietà familiari, come narra la storia dell'Italia, ma io non mi meraviglio di questo, ci sono solo in alcune zone d'Italia, e non, queste zone d'Italia non sono solo a Napoli, non sono solo a Napoli. Vabbè, questo punto, però io dico solo questo. Da napoletano, per bene, ti invito, tu hai il mio numero, David ha il mio numero, venite con l'anonimato più assoluto, vi porto io a conoscere il Napoli. Cioè io ho detto che c'è un'aberrante solidarietà familistica, familiare, ma un'aberrante non dipende solidarietà dalla geografia dell'uomo, che diciamo. spesso è collegata a zone geografiche precise. Mi dispiace, ma è così, è la realtà, è così, fa parte della storia. Lo so che ti fa schifo e fa bene che ti faccia schifo. Ma non solo a me, alla stragrande maggioranza dei napoletani, hai capito Giuseppe? Purtroppo il notizia la fa questa gentaglia, hai capito? Io sto meditando già da tempo, i miei familiari lo sanno, di scappare via. Il giustificazionismo dei genitori poi si manifesta in diversi modi, ma c'è sempre, purtroppo, il più delle volte. Sì, esatto, e non c'è, certo, c'entra che c'è. Se uno sta a Catania, a Napoli, a Bergamo, ma noi siamo diversi. Infila un tubo nel culo a qualcuno, è giusto che si faccia gli anni di galera che si deve fare. Non dico, era uno scherzo. Ma era ci uno mancherebbe scherzo, la camorra uccide, ma ci mancherebbe altro, ma ci mancherebbe io altro. Questo dicevo, hai fatto una questione geografica, certo, anche allora vedi anche, questo è il punto anche. Diverso, ho fatto io una questione geografica, ho fatto una questione geografica che non si riferisce, ho detto solo a Napoli, molto ma in particolare in molte zone del sud le relazioni familiari, la solidarietà familiare prevale, è un istinto materno del bene e del male, ma questo non è Questo non può essere la giustificazione per dire che questa parte d'Italia è la parte da peggiore, la parte no, ma io non ho mai detto che è la parte peggiore, ma non... questo è quello che passa, Giuseppe, tu se vai su qualsiasi media non fai altro che sentire queste cose. Io ho vergogna degli amici miei non napoletani che mi conoscono e che mi dicono però sai, ma certe cose, a me questa cosa mi dà fastidio perché io sono una persona per bene, ma come me la stragrande maggioranza. Per questo ti invito a venire. Assolutamente. Io ti porto a conoscere le persone per bene che esistono. No. Grazie Ciro, come? grazie. Grazie a te, ciao. Provincia di Vercelli. Buonasera, due Vai. Cose velocissime. Allora, la prima, vorrei rispondere all'ascoltatore di prima che tentava la sua moralizzazione della Zanzara, ma non ha capito che la Zanzara è un freak show, ma lo dico con tutto l'amore. Dovete parlare di fighe, dovete parlare di matrimoni, assolutamente dovete parlare di quelle cose lì, di fiori. Non lo dica a me, lo dica a quello che è presente qui, a quello che ha chiamato prima, non lo dica a me. Ma lo dica, di fiori, sì. D'amore, ma di che, ma cosa stiamo dicendo? Ma per cortesia, la Zanzara è il tendone dei fenomeni da baraccone, e ripeto, lo dico con amore. A parte che non è solo così, ma comunque io accetto anche questa semplificazione, se vogliamo, rispetto al moralismo che abbiamo sentito prima e rispetto a chi è presente qui in trasmissione, che è improvvisamente bloccato da moralismo acuto, insomma, rispetto a questa cosa qui, che è una cosa normale che non c'è manco bisogno di ripetere, ma lei ha perfettamente ragione. Vuole aggiungere qualcosa? No, a questo no, mi pare abbastanza chiaro. Stefano da Roma, Stefano da Roma. Stefano. Buonasera, pronto? Dimmi, eccolo. Dimmi. Pronto? No, io volevo chiedere a Parenzo di non abbandonarci perché abbiamo bisogno anche di lui. Ma io sono qua, infatti. Ecco, Parenzo, ti comando. Sono qui, non, tranquillo, sono qui. Ecco, è fondamentale perché per uno che ti insulta ci sono mille. Ma infatti lo so perfettamente, non è che la cosa mi spaventa, anzi. Che ci illumini. Cruciani, posso dire una cosa pure a Cruciani? Tu puoi dire quello che vuoi, come hai sentito in questa trasmissione mi si possono tirare anche Fantastico. Le pietre addosso, poi mi basta una parola, grazie, vai a Nanna per chiudere un intervento ridicolo, patetico e pieno semplicemente di rabbia e basta da parte di quel signore, prima non so chi sia, non me ne frega niente. Vabbè, ma gli imbecilli stanno dappertutto, non c'hanno. Ecco, bravo, mi sembra in questo caso la definizione giusta. Poi? Cioè, l'imbecille non c'ha né nazione né bandiera né niente, l'imbecille è un imbecille, punto, basta. Non è che ci Vabbè, che mi volevi dire? Quando chiamano sti imbecilli, appunto, l'unico, io un favore che ti chiedo, siccome ci rubano tempo prezioso per persone che magari possono dire cose molto più interessanti, non sono io ovviamente. Cioè, io ho poco tempo, ho soltanto un'ora per sentire questa trasmissione. Quindi niente, se magari di dargli un po' meno tempo, tutto qui. Tanto, imbecilli uguale, dipende l'imbecillità, qualche volta fa parte della grande commedia umana, Sì, il programma non deve esistere, è troppo volgare. Cioè, questo qua è un'imbecillità che serve perché mi ha fatto un grande favore, è stato un intervento di 10 minuti in cui io stavo zitto e quello si è sfogato di tutte le cose represse che aveva dentro. Ciao amico, ciao. Ciao utile. Stefano, ti abbraccio, ciao, ciao. Sono brutto e cattivo, ecco. Sentiamo le voci dei parenti del ragazzo di Napoli, così. Finale di trasmissione, abbiamo anche un ospite pronto, però risentiamo. Mio genere, la presa conversione è cosa bella ha fatto così. Aveva tutta, l'ha detto la mamma, aveva tutta del Napoli, quella là leggero, che la mamma dice se mio figlio aveva qualche jeans o da salire questo lo succedeva. È un omicidio questo. E poi mi ha preso la coppa casella, si toglie a cinque, io penso che non mi ha preso. Preso cosa, ragazzi? Non mi ha preso, vado qui e faccio la titana. è stato uno scherzo banale, non si fa. Però non c'è da mettere omicidio colposo, non la da mettere come pedofolia, perché arrivo tutti i pusciuriali quando venne interrogato sabato. Io arrivo tutti i pusciuriali, perché si abbracchi a Ciro, e a Ciro di creature 14-15 anni innocentemente. Chi li sono con omicidi? No, visti qua. Non voglio, non hanno andato a sabore, pure si muoveva senza malizia, forse non hanno capito, perché non è un delitto questo, non può mettere omicidio colposo, o omicidio colposo, chi la spara, chi la tende con quelle mani, cioè si abbrea che amore, quello che state facendo. Io non sostengo l'innocenza, sto dicendo che ha fatto un gioco a tre ragazzi, hanno sbagliato tutti e tre, non si doveva fare, ma l'hanno fatto, ma non è giusto che paghi mio figlio, non è un atto di violenza, non è un atto di violenza, non è il ragazzo l'ha presa e l'ha mantenuto, ci ha fatto la violenza, ha sbagliato. Ma... Allora, l'amico Boris Sollazzo mi scrive, Giuseppe, no, però devi dire che non è Napoli, non è colpa di Napoli. A Roma un 17enne ammazza a mani nude un extracomunitario indifeso, credo pakistano. Il giorno dopo il quartiere manifesta inneggiando a lui, il quartiere, certo. Ma vergogna, l'abbiamo detto ieri ospitando Casciani, lo speaker di quella radio romana, non c'è dubbio, vergogna, grande vergogna. Ma io qua parlavo di un'altra cosa, della famiglia. Se quella famiglia l'ha fatto, vergogna anche quello. Non ho detto che gli unici esempi di solidarietà ridicola famiglia e perversa solidarietà familiare ci siano a Napoli, non l'ho mai sostenuto, mai, ho detto che ci sono in diverse zone d'Italia. È con noi Valentina Nappi, buonasera. Buonasera. È considerata la più intelligente tra le pornostar. Non iniziare, no, non è una presa per il culo, non è assolutamente una presa per il culo, è la verità, perché l'ho scritto alcuni giornali, vedo anche. Hai una... Ma non sei il più, vabbè, lasciamo stare. Il più? No, credo. Allora, per cosa mi avete chiamato questa sera? Allora, Valentina, è uscita uno studio di una rivista scientifica che si chiama Clinical Anatomy. Con dei ricercatori italiani, questa ricerca sostiene che l'orgasmo vaginale non esiste, cioè l'orgasmo vaginale è soltanto un mito che va sfatato, non esiste il punto G, esiste solamente l'orgasmo clitoride. Vabbè, poi c'è tutta una spiegazione tecnica, se vuoi te la leggo, forse l'hai letta anche no, tu. No, l'ho già letta, allora, l'articolo è assolutamente veritiero, il fatto è questo, loro non riescono a spiegarsi in termini anatomici come sia possibile l'orgasmo vaginale, quindi arrivano alla conclusione che non esiste. Ovvero depongono il problema, però il problema c'è, perché almeno io e anche gli altri colleghi di questi ricercatori non possiamo spiegarcelo, però è una cosa che c'è. Cos'è che c'è? Faccio un esempio, l'orgasmo vaginale, questo fenomeno non riusciamo ancora a spiegarcelo totalmente, ma il fenomeno c'è. Cioè non è, cioè esiste, tu provi orgasmi, tu che tipo di... C'è qualcosa che manca nello studio dell'anatomia. Ah, ho capito, è uno studio... che non riusciamo ancora a spiegarci, però il fatto che l'orgasmo vaginale ci sia, magari è anche un problema di termini, perché può darsi che l'orgasmo vaginale derivi comunque da quello clitorideo, ma come sensazione è totalmente diverso. Allora, io voglio capire una cosa, tu quando provi un orgasmo, e ne hai provati immagino diversi, tantissimi, più di tante altre persone, no? Cioè, migliaia, quanti orgasmi avrai provato in vita tua fino adesso? Quanti anni hai, Valentina? Scusa. Non li ho mai contati, ne ho 23. Ce n'hai 23? Il primo orgasmo l'ho provato a 12 anni masturbandomi. Sì. Per cui ho avuto modo di 11 anni di orgasmi, 11 anni di orgasmi per una pornostar come te, insomma, piuttosto attiva, eccetera, insomma, sarà stato migliaia di orgasmi, diciamo, no? Migliaia di orgasmi. Sì. 365 l'anno, migliaia di orgasmi, 360 orgasmi minimo, 300. Sì, non è importante, credo. Non è importante, però vabbè, che c'è, è importante perché se uno è una sorta di, no, di verifica sul Ma terreno. Come si butta il tempo. Dai. No, perché si butta il tempo? Scusa, cosa volevi chiedermi? No, ma questo ti volevo chiedere tu che tipo, cioè quando provi un orgasmo sai che tipo di orgasmo provi, se è clitorideo, se è vaginale, insomma queste ricerche sono delle puttanate pazzesche oppure no? Questo voglio sapere. Allora, la ricerca non è una puttanata, il problema non è la ricerca in sé ma le conclusioni a cui arriva, ovvero non riusciamo a spiegarci questa cosa e quindi non esiste. Però la stessa scienza ci dice che ha senso fare ricerca proprio per spiegarci le cose che non ci spieghiamo, altrimenti non ha nessun senso fare ricerca. Faccio un esempio: il neutrino di Fermi è una particella che non è stata misurata per 22 anni da quando è stata battezzata. E dunque? E dunque probabilmente l'orgasmo vaginale ce lo spiegheremo tra un po', adesso non riusciamo a spiegarcelo, così ancora come lo squirt. Lo squirt, devo dire che sì, quello lo squirt che spesso si vede in giro e anche che spesso si prova è urina. Però lo squirt esiste. Cioè tu stai dicendo che spesso quello che si vede dove in giro? Nei video, nelle cose? Nei video no, ma anche quello che si fa a casa. Cioè nel senso parlando di coppie normali, no? Che non fanno porno, sì. O coppie o non coppie, o anche sì, persone che si masturbano. Sì. Dicevano no, ma è un liquido che sembra un po' l'urina, non so, è trasparente ed è salato. E dicevano, mi sa che non è pipì. È pipì. Perché comunque la sensazione di piacere può essere molto vicina e comunque, almeno per posso parlare per esperienza personale, sì. È un tipo di orgasmo un po' come quello anale, sì. Per cui serve un po' di pratica. In generale il sesso non puoi arrivare a certe percezioni del piacere se non hai fatto pratica, diciamo, non per raggiungere quell'orgasmo, in quella direzione. In quella direzione lì. Senti, se uno ti dice, ti nomina, che ne so, Matteo Salvini, no? Cioè della Lega, adesso andiamo in un'altra, proprio in un'altra direzione completamente. Tu, per esempio, uno come Salvini, che è considerato un bell'uomo, tu, cioè, che ne so, ti piacerebbe averci una storia? Cioè, ti piacerebbe provarlo da quel punto di vista? No. Cioè non ti ispira nulla dal punto di ce vista presente, sessuale? Sì. No. No, beh, come no? Ce l'hai presente? A parte che c'è cioè, queste. Allora, non lo so, non mi ispira sessualmente una persona per come è fatta o per cosa dice. Certo, se dice le cose che dice Salvini mi ispira molto poco. Però in generale basta che lo sai fare. Va bene anche un leghista. Poi quella... non conta che mentalità. Allora, la mentalità serve per avere un certo tipo di approccio al sesso. Però non credo che Salvini abbia lo stesso approccio al sesso che ho io. E perché? Che ne sai? Beh, questo non si può dire. Beh, no, lo stesso non è possibile. Però, lo stesso. Dietro una certa mentalità c'è cioè un certo sesso. Lo so. Cioè, la mentalità di Salvini che è una mentalità. Nel senso. Se tu sei conservatore lo sei anche a letto. Ah, tu dici che i conservatori, cioè quelli di destra sono... con i conservatori è molto molto noioso. Cioè quelli di destra lo fanno peggio? Probabilmente sì. Ma no, ma questa è per esempio questo è un questo, po' questo comune, è, no, ma è il contrario, il luogo comune invece è sempre anzi, stato il contrario. Perché vabbè lì... perché c'è lo stereotipo che quelli di destra fanno festini, che trans vabbè ma lì ha a che fare con la trasgressione, mica con la tecnica sessuale. No, ma anche col macismo, no? C'è il macismo di destra. Sì, appunto, una palla tremenda. Sì, ma senti, cioè, c'è il sesso, quello del marito forte e vigoroso, non so, del leone in mezzo alla foresta, che palle, cioè sono cose che ci fanno da tanti anni. Il sesso creativo e divertente è qualche altra cosa. Senti, a sinistra, dice lei. Ma quella per combattere il razzismo, uno tua volta avevi promesso di voler fare una specie di gang bang con dei neri, ma poi alla fine. No, l'ho già fatta. L'hai già fatta? Un gang con 12 neri. Con noi in risposta. 12. In risposta al razzismo della Lega, ma o l'hai fatta no, così per divertirti? L'avevo già fatta, ho diciamo, usato quella foto, la Blue Gang, così per dedicarla a Salvini. Per dedicarla a Salvini. Sì, io dico, però è impegnativa una roba così con 12 persone, una roba pazzesca. 12 persone, una roba. Vabbè, nel mio mestiere sono un atleta, altrimenti fare qualcosa. Bisogna uscire, sì. Come si fa a uscire vivi da una cosa del genere? Cioè, alla fine uno esce che no, per... io mi chiedo come si faccia ad uscire, o meglio, a vivere senza mai fare determinate esperienze. Cioè, ah, secondo me dici, sì. Almeno tutte le donne mia. Dovrebbero provare che cos'è una DP o che cos'è una gangbang. Ma anche ecco. Cioè io che sostengo, per esempio, che praticamente una perché nei porno si vedono tantissime gangbang dove c'è una donna con molti uomini, e molto poco il contrario, perché i maschi non ce la fanno. La donna può scopare per ore e ore e ore di fila, basta cambiare il partner. Per cui tu dici, no, tu dici di un arresto. Sì. Tra l'altro, se non erro, magari non dell'articolo di Vincenzo Pucco, ma sì, deve averlo scritto tipo su Facebook o qualche altra parte, diceva che il maschio ha bisogno appunto di una pausa e le donne no. Beh, in realtà per l'orgasmo clitorideo, dato che loro paragonano il clitoride a un pene, è vero sì e no, nel senso che anche i ragazzi grande tecnicismo, possono continuare. Sì. Addirittura c'è qualche ragazzo sex worker che sostiene che può avere una serie di orgasmi continui senza fermarsi, che somigliano a quelli del clitoride, nel senso che non c'è l'eiaculazione. Beh, ma qui siamo nel tecnico. Hanno più un climax, un boom, diciamo. Senti, ma dove sei? Al coso? Sei all'auricolare col coso? No, sei col telefonino normale, perché che ti sentiamo un po' rimbombante in una stanza che rimbomba. La stanza che è vuota. La stanza vuota. Sei al telefono normale, senza viva voce e altre cose? No. Senti, ma io non ho capito, ma uno come me, per esempio, che ha detto anche pubblicamente che gli piacciono le persone un po' più âgées, sono un po' strano secondo te? Perché qualcuno mi ha detto, Parenzo, per esempio, mi ha detto tu sei malato. No, non per quello. Che mi piacciono le persone âgées, un po' più grandi di me. No, mica per quello. Per sessualmente, sessualmente. Ma tu sei di destra o di sinistra? Bah no, ma non mi posso definire né di destra né di sinistra. Sono di un cinismo spaventoso, sono diventato di un cinismo... È un cinismo. Ma che etica, etica? Etica, ma qual è etica? No, beh, ma... Per essere cinico devi avere un'etica. Ma sì, no, ma... anzi. Ma no, ma... Se no sei così, cioè vai allo sbaraglio. Ma no, ma allo sbaraglio no, ma non ho una... non ho un'ideologia, non ho un... Penso delle cose che possono essere classificate di destra e delle cose che possono essere classificate di sinistra. Sono a favore del matrimonio gay, dell'adozione gay, ma sono per esempio contro l'immigrazione clandestina sfrenata, contro l'immigrazione clandestina tout court, eccetera, eccetera. Per esempio, prima abbiamo ospitato un leghista che ha dato del frocio a, non so se hai visto, Buonanno ha dato del frocio al presidente dell'Arcigay, no? Che lo sta, che e lo... cosa pensi del sesso anale su te stesso? Del sesso anale su me stesso? Guarda, il sesso anale su me stesso va bene, però non con oggetti, cose. Non ho, vabbè, questo... sei di destra. Ma ho capito, ma non è, scusa, abbi pazienza, però non è che se io non mi faccio mettere dentro nelle parti la signora sostiene questo, scusa, avrà le sue cioè, scienze, perché un uomo che invece dita almeno. Le dita, sì, beh certo, le dita sì, quello sì. Però vabbè, se qualcuno che può, se qualcosa che può vagamente somigliare a un fallo, no. Ma no, ma perché quello è semplicemente più doloroso, io odio il dolore, capito? È più ma doloroso. Dolore di cosa? Beh, vabbè, cioè, amica mia, tu però che pratichi queste cose. Quando caghi. Beh no, ma ho capito. Non ti fai male quando caghi, ti piace quando caghi. È la stessa cosa quando entra. Sì, d'accordo, però c'è chi è abituato e c'è chi non. Ma dietro questa repulsione per la penetrazione anale c'è un'ideologia. Cioè tu dici che e dovrei esserne cosciente. Ma tu dici che dovrei provare, dici, dovrei provare. Sì. Dovrei provare. Vabbè, senti, io ti posso rinvitare un'altra volta a parlare di queste cose, oppure devi essere sempre refrattari, eccetera. Vedi che possiamo, possiamo colloquiare tranquillamente, senza problemi. Sì, abbiamo litigato una volta. Non ti comporti come un guzzo napoletano, sì. No, ma guarda, quello non c'è pericolo. Quello ti assicuro che non c'è pericolo. Non lo so, cambia il linguaggio, però poi gli atteggiamenti sono gli stessi. Bah, ti abbraccio, ciao. Ciao. Presto, ciao. Ciao. Figlio, gli faccio chiudere le orecchie, non perché non le conoscano le parolacce, ma perché preferirai un mondo migliore. Migliore è rosa, fiori, profumo, vita, non cazzo, culo, merda, migliorati! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere. È una vergogna che Radio 24 faccia una cosa del genere. Forse una lavatina di capo a te ti farebbe bene. Radio 24. La passione si sente.